Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Partii per la guerra come isolato. La lettera di mia moglie, nel primo accesso di indignazione, di vanità ferita, di desiderio di vendetta, di odio forse, o che so io, l'avevo appallottolata e infilata nella tasca dei pantaloni. Ora la tirai fuori, la lisciai e rilessi un'altra volta quell'unico rigo. Mi resi conto che avevo fatto del male a Elizabeth. Qualche secondo dopo mi parve anzi di averle fatto molto male. Decisi di scriverle una lettera. Mi misi anche a tirar fuori la carta dalla valigia, ma quando questa fu disfatta, a quel tempo si andava ancora in guerra con sottomani di pelle, dal foglio azzurrino intatto mi venne incontro, per così dire, la mia stessa indignazione. Era come se il foglio intatto dovesse in realtà contenere tutto ciò che avevo ancora da dire a Elizabeth, e io lo dovessi spedire così com'era, bello liscio e pulito. Ci scrissi solo il mio nome. Lo imbucai alla più vicina stazione ferroviaria. Ancora una volta appallottolai il biglietto di Elizabeth. Ancora una volta lo infilai in tasca, appallottolato. Secondo la disposizione di servizio emessa dal Ministero della Guerra, firmata da Stellmacher, io ero avviato al reggimento della milizia territoriale numero 35, cioè direttamente al reggimento e non già al comando del distretto militare, che a seguito degli eventi bellici era stato spostato dalla zona di pericolo nell'interno. Ero dunque davanti al compito abbastanza complicato di scovare in qualche luogo il mio reggimento, che doveva trovarsi, in continua ritirata, in chissà quale villaggio, foresta o cittadina, in breve, in una posizione. In altre parole, ciò voleva dire che un isolato errabondo doveva imbattersi in una unità in fuga pure errabonda. Qualcosa del genere, di sicuro, non l'avevamo mai imparato alle manovre. Fu un bene che io dovessi essere assorbito innanzitutto da questo pensiero. Mi ci rifugiai, anzi. Così non dovevo più pensare a mia madre, a mia moglie, al nostro domestico morto. Il mio treno si fermava quasi ogni mezz'ora in non so quali minuscole stazioni di nessuna importanza. Viaggiammo, un tenente e io, in uno stretto scompartimento, una scatoletta di fiammiferi, per così dire, per circa 18 ore, finché raggiungemmo Kamionka. Da lì in poi le normali linee ferroviarie erano distrutte. Solo una ferrovia provvisoria a scartamento ridotto, con 3 minuscoli vagoncini merci scoperti, portava al più vicino comando di tappa, che era in grado di indicare agli isolati, quantunque senza garanzie, la momentanea posizione dei singoli reggimenti. Il trenino avanzava lentamente. Il macchinista suonava senza posa perché schiere di feriti a piedi e su carri di contadini ci venivano incontro per l'angusta via. Io sono, lo scoprii allora, abbastanza indifferente ai cosiddetti orrori. Per esempio, provai meno sgomento alla vista dei feriti che giacevano su una barella, probabilmente perché avevano perso le gambe o i piedi, che non alla vista di quei soldati che soli, senza appoggio, venivano avanti barcollando, che avevano solo una lieve ferita di striscio e dalle cui fasciature candide il sangue continuava a filtrare. E con tutto ciò, ai lati della ferrovia a scartamento ridotto, nei grandi prati, già pallidi per l'autunno, stridevano i grilli tardivi, che una ingannevole tiepida sera di settembre aveva indotti a credere che fosse ancora o di nuovo estate. Thank you. Al comando di tappa incontrai per caso il cappellano militare del 35esimo. Era un uomo di Dio corpacciuto e soddisfatto di sé, in una stretta, tesa e lustra veste sacerdotale. Si era perso durante la ritirata, insieme col suo servitore, il cocchiere, il cavallo e il cariaggio protetto da una tenda, dove egli nascondeva altare e paramenti per la messa, ma anche una grande quantità di pollame, bottiglie di grappa, fieno per il cavallo e altri prodotti requisiti ai contadini. Mi salutò come un amico che non si vede da tempo. Sembrava temere nuove peregrinazioni e perciò non poteva nemmeno decidersi a sacrificare il suo pollame al comando di tappa, dove già da 10 giorni ci si nutriva esclusivamente di conserve e patate. Il cappellano militare non vi era particolarmente amato. Ma egli si rifiutava di mettersi in cammino alla cieca o fidando soltanto in qualche probabilità, finché io, col pensiero fisso a mio cugino Josef Branco e al vetturino Manes Reisiger, preferì qualche probabilità all'attesa. Il nostro 35esimo, così diceva la vaga informazione, doveva trovarsi 3 chilometri a nord di Berzezzani. Mi misi allora in cammino col cappellano militare, il suo carro, il suo pollame, senza una mappa, munito semplicemente di uno schizzo fatto a mano. Finalmente trovammo il 35esimo. Non però a bordo di Berzezzani, bensì solo nel borgo di Strumilze. Mi presentai al colonnello. La mia nomina sottotenente era già in possesso dell'aiutante maggiore. Chiesi di vedere i miei amici. Vennero. Chiesi se potevano essere assegnate al mio plotone. Ma come vennero? Li aspettavo nell'ufficio del sottufficiale furiere Chenoweth, ma a loro non avevano detto che ero stato io a farli venire. Sulle prime non mi riconobbero affatto. Ma bastò un momento e già Manes Reisiger mi buttava le braccia al collo, dimentico di tutte le norme militari, mentre mio cugino Josef Branco se ne stava ancora là, dritto, irrigidito sull'attenti, per stupore e disciplina. Era uno sloveno, per l'appunto. Manes Reisiger, invece, era un noncurante vetturino ebreo dell'Est, non certo un fanatico del regolamento di servizio. La sua barba non era che un insieme di grovigli ispidi e selvaggi, e l'uomo non aveva l'aria di essere in uniforme, ma in maschera. Baciai uno dei grovigli della sua barba e poi mi rivolsi anche a Josef Branco per abbracciarlo. Io stesso, anch'io, dimenticai che ero un soldato. Il mio unico pensiero era la guerra, e gridai forse 10 volte di seguito: «Siete vivi! Siete vivi!» Ma Josef Branco notò subito il mio anello matrimoniale e accennò muto al mio dito. «Sì», dissi, «mi sono sposato». Sentii, vidi, che volevano saperne di più del mio matrimonio e di mia moglie. Così uscii con loro sulla minuscola piazza circolare intorno alla chiesa di Strumilze. Ma non parlai affatto di Elisabeth, finché, d'un tratto, mi venne in mente, e come poteva essermi sfuggito, che nel portafoglio conservavo una sua fotografia. Era indubbiamente la cosa più semplice. Mostrare ai miei amici la fotografia mi risparmiava ogni discorso. Tirai fuori il portafoglio. Cercai. La fotografia non c'era. Cominciai a pensare dove potevo averla persa o dimenticata. Ed un tratto credetti di ricordarmi che l'avevo lasciata da mia madre, a casa. Mi colse un incomprensibile, anzi assurdo spavento, come se avessi strappato o bruciato la fotografia di Elisabeth. «Non trovo la fotografia», dissi ai miei due amici. Invece di rispondere, mio cugino Josef Branco tirò fuori dalla tasca il ritratto della sua donna e me lo porse. Era una bella donna, di forme superbe, in costume sloveno, una coroncina di monete sui capelli lisci spartiti della divisa e una catena delle stesse monete girata 3 volte intorno al collo. Le sue braccia forti erano nude, le mani puntate sui fianchi. «Questa è la madre di mio figlio. È un maschio», disse Josef Branco. «Sei sposato?» chiese Manes il vetturino. «Quando finisce la guerra la sposerò. Nostro figlio si chiama Branco». come me, a 10 anni. E dal nonno sa intagliare delle pipe meravigliose. Nei giorni seguenti, che ci stavano davanti enormi e gravidi di pericoli, tetri e solenni e misteriosi e sconosciuti, secondo le previsioni non c'erano da aspettarsi battaglie, ma solo ritirate. Neanche 2 giorni dopo, da Strumilze, arrivammo nel villaggio di Jeziori e dopo altri 3 giorni nella cittadina di Pogrodi. L'esercito russo ci inseguiva. Ci ritirammo fino a Krasnebusk. Probabilmente a causa di un ordine che non era arrivato a tempo, restammo qui più a lungo di quanto fosse nelle intenzioni della seconda armata. Così, una mattina presto, ci sorpresero i russi. E noi non facemmo più in tempo a trincerarci. Questa fu la storica battaglia di Krasnebusk, nella quale fu annientato 1/3 del nostro reggimento e 1/3 cadde in mano al nemico. Anche noi, Josef Branko, Manes Reisiger e io, fummo presi prigionieri. Così, ingloriosamente, finì la nostra prima battaglia. A questo punto sentirei un bisogno impellente di riferire sui particolari sentimenti che agitano un prigioniero di guerra. Ma so bene quale grande indifferenza incontra oggigiorno un racconto del genere. Accetto di buon grado il destino di essere un dimenticato, ma non quello di diventare il narratore del dimenticato. A stento ancora mi si capirebbe se, per esempio, al giorno d'oggi mi arrischiassi a parlare della libertà, dell'onore, figuriamoci poi della prigionia. In questi anni è meglio tacere. Io scrivo unicamente allo scopo di chiarirmi a me stesso e anche pro domine Dei, per così dire. Che Dio mi perdoni. Bene. Eravamo dunque prigionieri di guerra, tutto il nostro plotone. Con me restarono Josef Branko e Manes Reisiger. Eravamo prigionieri insieme. «Per noi la guerra è finita», diceva Manes Reisiger. «Non sono mai stato prigioniero», aggiungeva qualche volta, «e nemmeno voi due, ma so che ci aspetta la vita e non la morte. Ve ne ricorderete tutti e due quando ritorneremo. Se solo sapessi che cosa fa il mio Efraim. La guerra durerà molto, anche mio figlio verrà richiamato. Tenetelo a mente. Manes Reisige di Zlotogrod, un vetturino qualsiasi, ve l'ha detto. A questo punto faceva schioccare la lingua. Sembrava lo schiocco di una frusta. Le settimane che seguirono restò quieto e muto. La sera del 2 ottobre dovevamo essere separati. Si aveva l'intenzione, come era consuetudine allora e cosa naturale, di separare gli ufficiali prigionieri dalla truppa. Noi saremmo rimasti all'interno del territorio russo, mentre gli uomini della truppa dovevano essere mandati molto più lontano, si parlava della Siberia. Io feci istanza per la Siberia. Fino a oggi non so ancora, né lo voglio sapere, in che modo Manes Reisiger sia riuscito allora a portarsi dietro anche me in Siberia. Mai finora, credo, un uomo è stato così felice come me per essere riuscito con l'astuzia e la corruzione a ottenere degli svantaggi. Ma in realtà fu opera di Manes Reisiger. Fin dal primo momento della nostra prigionia aveva assunto il comando di noi tutti, del nostro plotone. Che cosa non si impara dai cavalli, sempre che ci sia la grazia di Dio, quando si è un vetturino, anzi, un vetturino ebreo di Zlotogrod. Delle vie traverse e diritte per le quali arrivammo in Siberia non sto a raccontare. Vie diritte e traverse si intendono da sé. Dopo 6 mesi eravamo a Vjatka. Vjatka è nell'interno della Siberia, sul fiume Lena. Il viaggio durò circa 6 mesi. I giorni li avevamo scordati durante questo lungo itinerario. Si susseguivano innumerevoli e senza fine. Chi conta i coralli di una collana a 6 fili? 6 mesi circa durò il nostro trasporto. In settembre era cominciata la nostra prigionia. Quando arrivammo era marzo. Nella Ugarten a Vienna i cespugli di citiso dovevano già essere in fiore. Presto cominciava a profumare l'oleandro. Qui, poderosi lastroni di ghiaccio andavano alla deriva sul fiume. Anche nei punti più larghi si poteva attraversarlo senza bagnarsi i piedi. Durante il trasporto 3 del nostro plotone erano morti di tifo. 14 avevano cercato di fuggire. 6 della nostra scorta avevano disertato con loro. Il giovane sottotenente dei cosacchi che comandava il convoglio, nell'ultima tappa, ci fece aspettare a Zirain. Doveva catturare sia i fuggiaschi che i disertori. Si chiamava Andrei Maximovich Krassin. Giocava a carte con me mentre le sue pattuglie perlustravano la zona alla ricerca degli scomparsi. parlavamo francese. Beveva samognoca, che gli portavano gli scarsi coloni russi della zona, dalla sua fiaschetta a forma di zucca, e mostrava fiducia e riconoscenza per ogni occhiata benevola di cui lo gratificavo. Mi piaceva il suo modo di ridere, i forti denti smaglianti sotto i corti baffi neri come il carbone e gli occhi, che erano solo scintille quando li socchiudeva. Era un maestro della risata. Si poteva dirgli, per esempio, «Rida un pochettino, per favore!» E all'istante la sua risata risuonava fragorosa, generosa, magnanima. Un giorno le pattuglie riuscirono a scovare i fuggitivi. Per essere esatti, quel che restava dei fuggitivi, 8 su 20. Gli altri sicuramente erano sperduti o nascosti da qualche parte, o periti chissà dove. Andrei Maximovich Krasin stava giocando con me a tarocchi, nella baracca della stazione. Lasciò che la scorta e i prigionieri si avvicinassero a noi, fece venire per loro tè e grappa, e comandò a me, giacché ero in balia dei suoi comandi, di dettare le punizioni, sia per quelli del mio plotone che per i 2 disertori russi riacciuffati. Gli dissi che non conoscevo il regolamento di servizio del suo esercito. Prima mi pregò, poi minacciò. Alla fine io dissi, siccome non so quali pene si dovrebbero infliggere secondo le loro leggi, dispongo che tutti rimangano impuniti. Posò la sua pistola sul tavolo e disse, lei è complice del complotto, io l'arresto. La faccio mettere agli arresti, signor tenente. Non vogliamo finire la partita? Gli chiesi e allungai la mano per prendere le mie carte. Certamente, disse. E continuammo a giocare mentre i soldati ci facevano cerchio intorno, la scorta e gli austriaci. Perse. Mi sarebbe stato agevole farlo vincere, però temevo che potesse accorgersene. Infantile com'era, il sospetto gli procurava un piacere ancora maggiore del riso, e in qualsiasi momento egli era pronto ad adombrarsi. Così lasciai che perdesse. Aggrottò le sopracciglia e dette un'occhiata al sottufficiale che comandava la scorta, quasi che un attimo dopo volesse far fucilare tutti e 8 gli uomini. Gli dissi, rida un pochettino. Scoppiò in una risata generosa, magnanima, che mise in mostra tutta la sua smagliante dentatura. Dentro di me ero ormai certo di aver salvato quegli 8. Rise per 2 minuti buoni. D'un tratto diventò serio, come era sua abitudine, e ordinò al sottufficiale. Manette per tutti e 8. Ritiratevi. Darò poi disposizioni. Poi, dopo che gli uomini ebbero lasciato la baracca, cominciò a mescolare le carte. Rivincita, disse. Facemmo un'altra partita. Perse un'altra volta. A quel punto, rimise la pistola nella fondina, si alzò, e disse, vengo subito, e sparì. Io restai a sedere. Si accesero le 2 lampade a petrolio, i cosiddetti Rundbrenner. Lo stessa polacca si avvicinò barcollando con un altro bicchiere di tè in mano. Nel tè appena fatto nuotava ancora la vecchia fettina di limone. Lo stessa era larga come una nave. Aveva però il sorriso di un bambino buono, era familiare e materna. Allorché feci per levare dal bicchiere la vecchia brutta fettina di limone, fu lesta a cacciarci dentro 2 grosse e amorevoli dita e ripescò il limone. La ringraziai con lo sguardo. Bevvi il tè bollente a piccoli sorsi. Il tenente Andrei Maximovich non ricompariva. Il tempo passava e io dovevo ritornare dalla mia gente, al campo. Andai fuori, sul terrazzino, e gridai un paio di volte il suo nome. Finalmente mi rispose. Era una notte gelida, così fredda che da principio pensai che perfino un grido appena uscito di bocca si sarebbe congelato e non avrebbe così mai raggiunto la persona a cui era diretto. Alzai gli occhi al cielo. Sembrava che le stelle d'argento non fossero nate da lui, ma piuttosto che fossero state conficcate chiodi lucenti nella sua volta. Un vento impetuoso da est, il tiranno fra i venti della Siberia, mi mozzava il fiato in gola, levava al cuore la forza di battere, agli occhi la facoltà di vedere. La risposta del sottotenente al mio grido, recatami dal pur maligno vento, mi pareva come il confortante messaggio di un essere umano inteso per la prima volta dopo tanto tempo, benché la mia attesa là fuori, nella notte nemica, non fosse durata più di un paio di minuti. Ma quanto poco confortante fu questo messaggio umano. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei Cappuccini di Josef Roth. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it